Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Defurbizzate Alessandro Milan. Siete tutti somari. Senti, cara scroccona, se per caso vai a fare un viaggetto in Albania, avvisami che ti presto la casa. Veronica, ti posso accontentare io, faccio parte di un ordine cavalleresco, quindi abbiamo anche i cavalli, quando vuoi a Firenze. Ciao, Gianluca da Milano, come faccio per invitare a cena Veronica Gentili? Siamo qui, cari ascoltatori, i funamboli sono tornati con delle domande esistenziali, domande essere o non essere. Essere, e chi lo sa. Come fai, caro Gianluca, come si chiama Gianluca, Giancarlo? Come fai? Allora, diccelo tu, il cellulare qui non possiamo darlo pubblicamente, il cellulare di Veronica. Insomma, Gentile. Lo dai in giro a porci e cani. No, no, non possiamo. Come fare? Non lo so, sono colto alla sprovvista da questo numero. O scrivermi. Come? Dove? Non lo so, dimmelo tu, perché non so come si fa. Puoi scrivere al 349-238-6666, caro ascoltatore, col tuo cellulare, dire sono quello che vorrebbe. E poi dopo... Mi chiamo, bim bum balle giù. Vediamo un po', insomma, se sei fortunato o sfortunato, dipende da poi... La seconda vediamo, che hai detto. Vediamo come andrà a finire. È la seconda. Le 9:10 minuti, qui c'è tutto lo schieramento da Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fuscone, Elisa Pancari, Peter Bescapè in regia e a Roma. Bello come il sole, che fa proprio un gesto di entusiasmo con le mani, Alessandro Chiappini. Oh, che bello. Dai, diamo i numeri come sempre, Veronica. Diamo i numeri in tutti i sensi, ne diamo uno anche qualora voleste telefonarci e dirci un po' quello che vi pare. Il numero è 349-238-6666. Però non per telefonarci lì, perché sennò non funziona. Per telefonarci 800 24 00 24. Niente, non ho ancora capito che c'è l'SMS o il WhatsApp. E poi per chiamarci perché, il numero verde. Lo vedi perché verde. Stavo spiegando che è meglio che lo dica tu dove invitarmi a cena. Perché io ancora quando mi dicono ma posso chiamarti non so dire dove. Non so quindi dire per dove. Favore, cioè ho oggettivamente delle problematiche importanti. No, se volete chiamarci 800 24 00 24. Oggi abbiamo dei funamboli che ci racconteranno varie sfaccettature sul tema, soprattutto immigrazione, tema migranti. Forse avete visto questo video di questa aggressione, ecco, non si può definire se non in un altro modo, anche se non fisica ma verbale e, come dire, imponente di questi... Che impressione ti ha fatto? È abbastanza inquietante. A me stiamo parlando di Como, no? Di questa irruzione di skinhead, non so neanche come... Sì, non so sì, di quale sì. Gruppo appartengano, skinhead. No, impressionante, perché mi ha colpito la compostezza e la pacatezza di coloro che erano lì e che hanno assistito un po' inermi a questa sì, sono piazzata. Rimasti immobili guardandoli così anche un po' tra sì. Perplesso e l'incredulo. Sì. Però, come dire, passivamente tranquilli, ecco, mettiamola così. Meglio, perché non sarebbe, credo, certo. Finita benissimo. Io li ho trovati estremamente ridicoli, invece. Ridicoli. Proprio, guarda, senza... Devo dire che non potevano farsi, a mio avviso, e autogol peggiore. Nessuna... Non incutevano nemmeno timore, non avevano nessun beh, tipo insomma, di autorevolezza. Adesso, forse no. Essere in quella stanza un se po' sì. No, non intendo questo. Per timore poi fisico, il fatto che poi se prendi 8 bellimbusti possono farti male, certo. Ma loro, a livello di proprio... Come figure, come potenza, non emanavano proprio nulla. Sembravano dei pappagalli che ripetevano qualche cosa nemmeno scritto da loro. Loro ridicoli, anacronistici, fuori tempo massimo, ridicoli. Comunque, chiamateci perché vogliamo partire a raccontare un po' spaccati d'Italia con il primo funambolo che ci raggiunge da Padova. Dove io... ho letto, non sono di Padova, quindi ci aiuterà il nostro ospite a capire. Ci deve essere una situazione abbastanza problematica dal punto di vista della convivenza civile, perché... Parecchio. Marco Trevisan che è con noi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ingegnere, buongiorno. Sposato, vive con la moglie e due bimbi. Dove esattamente? Perché è stato definito, come si definisce in questi casi, il Bronx di Padova, no? Per dare questa accezione. Due piccoli gemelli meravigliosi di 2 anni e mezzo. Bene. E anche una moglie meravigliosa. E un cane, e un cane, cane pure. Giusto. È difficile effettivamente definirlo diversamente da un Bronx. Dov'è esattamente? A Padova? È di fronte alla stazione ferroviaria della parte del centro, quindi in una zona, io abito lì da 44 anni, da quando sono nato, prima di me abitavano i miei genitori e prima ancora i miei nonni, quindi si può dire che la zona la conosciamo la bene. È vero. Era che diversa, lui... Marco, la situazione quando c'erano i suoi genitori e i suoi nonni? Il quartiere era molto diversa, era molto diversa, fino a 20 anni fa era radicalmente differente, era uno dei quartieri più frequentati, più popolosi, più belli di Padova, direi. Come spesso è, devo dire, in molte stazioni, magari in Italia spesso è diverso, ma se si gira il mondo è normale che la stazione ferroviaria, spesso è la stazione centrale, la si chiama così, quindi è il centro di una città, è il luogo nevralgico che connette non solo le infrastrutture ma anche le persone. Sì. È così di fatto anche a Padova. Però è vero, che lei è rimasto, addirittura leggevo, l'unico nucleo di italiani nella zona, addirittura l'unico. No, nella zona nel no. Quartiere, nella via. Nella via Cairoli, che è una via lunga 100 metri, questo è vero, però direi che è non fondamentale, non caratterizzante della situazione. Ci sono molte altre famiglie che non sono italiane che patiscono esattamente come me gli stessi problemi. Che quali sono? Ci può descrivere cosa vuol dire viver lì? Guardi, la zona è, lo Stato è assente, è impotente, incapace di intervenire nelle situazioni che si presentano, che sono di degrado estremo. Il degrado estremo parte con lo spaccio della droga, ma direi che lo spacciatore in sé e lo spaccio come atto non è il motivo, il momento in cui più soffriamo. Le cose che davvero rendono difficile la vita sono l'inciviltà, la sostanziale inciviltà, la mancanza delle più fondamentali regole di convivenza civile. Lei parla di un degrado urbano dettato per esempio dall'assenza totale di illuminazione, quindi il fatto che questo anche agevoli dei comportamenti, no, come urinare in mezzo alla strada, cioè utilizzare proprio le strade come se fossero così delle latrine. C'è un bivacco continuo e le persone che sono lì mangiano, bevono, si ubriacano, si drogano pure, qualche volta anche sfogano i loro istinti sessuali. E sono appunto questi atti, insieme agli odori che ne conseguono, di urina, di feci, l'imbarazzo nell'invitare. Stiamo parlando di Padova, è una delle città più importanti d'Italia, più civilizzate, ecco, senza voler fare una classifica, ma voglio dire, questa è la situazione. La cosa che mi ha colpito, leggendo anche qualche sua dichiarazione, è questa: di fronte a una assenza totale dello Stato, che cosa fa uno in quella situazione? Quasi trova proprio la protezione, uso questa parola, degli spacciatori, della gente, dei criminali del luogo. Anche a me ha colpito molto, come una specie di sodalizio con delle persone che in qualche modo li comandano per cercare di portare avanti quietamente, per esempio penso a furti, no? Lei è in corso in un furto. Mi rendo conto che questa informazione sia, giornalisticamente parlando, efficace. Non è una cosa così incredibile, ci sono delle esigenze essenziali per poter vivere e convivere, credo, in una società, e queste esigenze passano anche attraverso il controllo del territorio e servizi di protezione. Nel momento in cui lo Stato per decine di anni dimostra di essere completamente inefficace, è chiaro che i cittadini, che sono riconoscibili e ben localizzati perché abitano lì, nel momento in cui hanno anche dei bambini piccoli, devono trovare degli appoggi che gli forniscono quei minimi servizi di protezione. Quindi è chiaro che se ci sono delle persone, questi appoggi lei li trova appunto in persone, non vorrebbe trovarli in quelli lì, l'appoggio, vorrebbe trovarlo in persone, come dire, delle istituzioni. Ma guardi, io col passare del tempo, nell'ambito della legalità, ecco. Ho capito perché ci sono delle persone in certe regioni d'Italia che sono omertose, e perché ci sono delle persone che si vede anche delle volte in televisione che quando arriva la polizia evidentemente si schierano contro la polizia, ed è il motivo è lo stesso che vivo io. La polizia, i carabinieri, i vigili, non so, la politica non sono assolutamente in grado di proteggermi, io sono costretto a malincuore a stringere dei rapporti con le persone che invece sono costantemente a fare il palo sotto casa. Questi sono servizi di spaccio di droga che sono formati da persone competenti, formate, istruite, che sono dotate di servizi di comunicazione, che si parlano tra di loro, ci sono persone che controllano il territorio, che fanno il palo, che avvisano, quindi... Sì, no, ma è incredibile, cioè lei è ingegnere, sposato, due bambini, un cane, deve, come dire, invece che appoggiarsi alle istituzioni... Per non abbandonare il posto, deve chiedere aiuto degli spacciatori. Deve chiedere aiuto e protezione nel senso di, voglio dire, arriva la polizia, dice, lei dice, guardi, tanto qui lo Stato non c'è mai, se arriva una volta ogni tanto, io come faccio a fidarmi... affidarmi allo Stato, poi no, lo Stato poi colpisce, va via. Colpisce molto, perché è come se spiegasse in piccolo quelle che sono, appunto, no, in un contesto specifico, in un quartiere, le dinamiche della mafia, no? Perché la gente poi si affida a degli stati surrogati. Esatto, degli stati surrogati, paralleli, alternativi, che però di fatto sono molto più efficaci dello Stato italiano. Mi dispiace dirlo, ma lì lo Stato italiano non è... È assente. Non è... Io non posso dire che sia assente, perché la polizia passa, i carabinieri si vedono, c'è anche l'esercito, antifontestazione ferroviaria. Ma però non ha il controllo, però, diciamo, non ha il controllo della situazione. Hanno le armi spuntate al punto tale che la gente è il primo a dirmi, guarda, cosa vuoi che faccia, non posso fare niente. Lo sei. Se anche, per esempio, lo spaccio della droga, noi diciamo che è illegale, ma tanti vorrebbero legalizzarlo, diciamo che è illegale, ma non è vero, vi assicuro che non è vero, perché è impossibile arrestare uno spacciatore. Lo spacciatore è cosciente del fatto che nessuno gli può fare niente, e quindi lui imperterrito continua la sua attività sotto le telecamere di sorveglianza, e anche quando passa la polizia, e la polizia li ignora, si gira dall'altra parte. Certo. Perché? Signor Trevisan, guardi, ci sono anche altri due ospiti che adesso dobbiamo salutare. Ci ha dato uno spaccato iniziale davvero, davvero inquietante. La ringraziamo. Insomma, mi sembra di capire che lei rimarrà lì, perché mi sembra di capire che la voglia di abbandonare quel posto non c'è. Certo, convivere in una situazione... Resistenza in via Cairoli. Esatto, in via Cairoli a Padova. Intanto la ringraziamo. Marco Trevisan, 44 anni, ingegnere, ricordiamo. Cittadino qualunque, uno, il vero e primo funambolo della puntata di oggi, che ci ha raccontato questa situazione. Veronica, vogliamo parlare un po' di immigrazione, perché ci sono due Pronti. Ospiti su un tema che ieri, insomma, a parte la questione dei come li dobbiamo chiamare, skinhead, ridicoli, nazischi, come li dobbiamo definire? Non lo so, qualcuno mi ha scritto di sciacquarmi la bocca prima di parlare degli skinhead del Veneto. Sarà uno skinhead del Veneto che ti ha scritto. Suppongo così. Anch'io che debba essere qualcosa del genere. Quindi sì. Va bene. Allora, dai, cambiamo tema. L'hai sciacquata per me. Sì, sì, l'ho sciacquata. Quindi adesso ne puoi parlare. Adesso però. Ne posso riparlare di nuovo. Allora, è successo che ieri c'è stata, o l'altro ieri, una protesta, insomma, in questi giorni, a Quarto, in un centro di accoglienza di migranti. Ce ne sono diversi in quel centro. Salutiamo Carmine Morelli, che è responsabile, o uno dei responsabili di questo centro. Buongiorno e benvenuto, Morelli. Grazie, buongiorno. Perché protestavano? Perché non hanno ricevuto il... Poi l'hanno ricevuto, credo, ma insomma due giorni fa no, il cosiddetto pocket money. Allora, si è detto tante volte, ai migranti non arrivano i famosi 35 euro al giorno, quelli arrivano alla cooperativa o a chi gestisce il centro che li accoglie, che utilizza per gestirne. Di questi 35 euro c'è un pocket money, cioè quanto è questo pocket money? 1,50 euro, 2 euro? Quant'è? Sì, è vero che i migranti non ricevono i 35 euro al giorno, ma i 35 euro è una base d'asta dove le cooperative partecipano a delle gare d'appalto. Quindi poi da lì al ribasso. Però ricevono una cifra. I migranti ricevono una cifra che è di 2,50 euro al giorno. 2,50 euro, è il cosiddetto pocket money, la mancetta, serve, un tempo direbbe, diciamo, il nonno. Serve a quello che dice il governo o le prefetture, è quello che serve a loro per una gestione quotidiana loro, per le sigarette o per le ricariche telefoniche, dal secondo mese in poi. E perché non lo ricevevano? Perché non l'hanno ricevuto? Perché nel primo mese è a carico delle cooperative, quindi dal secondo mese poi sarebbe a carico loro. E perché non glielo avete dato? Non lo ricevono ancora, in quanto le cooperative sono ferme ad aprile con i pagamenti, perché la prefettura ha pagato il mese di aprile 2017, e la nostra cooperativa ha anticipato il pocket money fino ad agosto già, quindi era scoperto di settembre ed ottobre. Ma andando in difficoltà no, ma io dico una cosa adesso, Veronica, ne abbiamo parlato tante volte, ma uno Stato che non sa gestire in maniera organizzata la questione dell'immigrazione, poi ci sono dei centri, però non paga le cooperative da aprile, le cooperative quindi devono anticipare i soldi e dopo un po' dicono non ce la facciamo più, Stato pagaci perché già gestiamo i centri di accoglienza, dacci i soldi perché sennò noi non possiamo darli, quindi non danno i soldi, quindi i migranti si incazzano e sfasciano i locali, cioè... Certo. Che è un'altra delle contraddizioni, come quando lo Stato non paga, no? Per esempio gli imprenditori, e di nuovo uno si ritrova in questa specie di circolo vizioso. Mi permette di dire una cosa, ma ci sono tante contraddizioni, perché una delle tante è quella in cui lo Stato ha previsto la certificazione dei crediti per poi andare a uno sconto fatture o a dire a un credito bancario, una certificazione che non avviene mai. Uno registra le fatture, le porta al MEF, ma il MEF non risponde mai. Quindi l'imprenditore viene lasciato da solo alla fine. Vabbè, In un momento particolare che attraversa anche la nazione, poi dal punto di vista economico veniamo lasciati da soli. Ma questa reazione che hanno avuto ieri gli ospiti del centro l'ha molto turbata, l'ha lasciato sconcertato, oppure sono soliti avere atteggiamenti di questo tipo? No, la cosa ci ha turbato abbastanza, perché questo è un centro che parte nell'ottobre 2016 e non ci sono mai stati problemi. Una comunità molto tranquilla, che non ha mai avuto reazioni, ci sono stati ritardi già in altre occasioni, ma... c'è molto dialogo con i ragazzi, con i mediatori, con il centro, quindi non c'è stata mai un'azione del genere. Però in questi giorni in questo ci siamo resi conto che qualcosa non andava, perché notavamo che si riunivano in gruppetti e non c'era dialogo con noi, che poi viviamo la struttura tutti i giorni. Certo. E poi è successo questa esplosione. Però Morelli, ci faccia salutare anche un altro ospite che è un sindaco. Certo. Un sindaco è Michela Rosetta, sindaco di San Germano. Siamo in provincia di Vercelli, giusto, sindaco? Giusto. Buongiorno. Lei invece ha una posizione molto chiara e l'ha messa anche in una delibera di giunta molto critica. Addirittura arrivare a fare a che sanzionare. Cosa? A sanzionare coloro che ospitano migranti, anche strutture come quella di Quarto in campagna, come la Caritas, come perché anche lei ce l'ha soggetti privati, chi? Suppongo, sì. Dai 150 ai 5.000 euro, leggo, sindaco. Ma innanzitutto non è proprio così, nel senso che io non vado a multare chi ospita i profughi, diciamo i migranti, ecco, forse avete usato il termine giusto, perché profugo magari forse alla fine di un iter. Io non ho detto assolutamente di non ospitare queste persone, io ho messo delle regole preventive, ovvero coloro che non volessero partecipare a questi bandi eccetera sono dovrebbero dirmelo, perché il vero problema di ricaduta poi a livello locale, quindi del sindaco, è quello della sicurezza. Quindi io ho messo dei parametri, ho messo dei paletti, tu vuoi partecipare, partecipi, però per portarli a casa, un po' come ho letto adesso che farà Roma, no? Vogliono fare a Roma, sì, esatto. Certo. Eccetera, bisogna rispettare dei parametri di legge per garantire che la qualità di vita sia delle persone che ospitano che degli ospitati sia comunque consona. E un'altra cosa va di pari passo, le tasse, perché se tu in quel momento lì mi diventi una struttura ricettizia, non sei più una struttura urbanistica, cioè non sei più quella che riguarda dove viviamo quotidianamente, ma mi fungi da albergo, perché io non ho mai visto nessuno. Beh, da albergo, ma se fosse questo però, sindaco, ma vale anche per un privato cittadino che decide per esempio di mettersi a disposizione? Sì. Per ospitare una persona diventa una struttura ricettiva? Scusi, lei ha detto se io invito mio cugino, perché non è che mi viene il sindaco a capire se vivo in una situazione. Perché se io ritengo quello che ho letto, no? Se mi arriva qui e lo metto, lo integro, facciamo tutto il processo eccetera, per il quale io percepisco Quindi io percepisco un, come diceva prima il, quello che mi aveva preceduto, 35 euro al giorno. Beh, ma devo dargli da mangiare, no? Ma assolutamente. Allora vuol dire che tu fai business, e se fai business mi diventi come un albergo, perché io il mio albergo di San Germano, il mio ristorante, devo applicare secondo quelli che sono gli tabellari che ha fatto Roma, e magari vendono, tanto per dire, 4 caffè al giorno, e io devo mettergli una tassa perché la tabella varia a secondi, metri quadri, quello che fa, quello che non fa, oppure il fiorista perché secondo Roma produce più rifiuti perché c'ha gli scarti dei fiori. Ma stiamo scherzando adesso. Quindi allora, lei dice si comportino come una struttura recettiva. Guardi, per me va benissimo. Sì. Se vogliono far business a San Germano ne pagano anche quello che è la conseguenza, secondo me, di buon senso. Ma per lei è solo business? Cioè non è una gestione? Secondo me sì, perché se uno veramente volesse l'integrazione, volesse il bene, eccetera, secondo me tutti partecipano a questo, perché comunque c'è un ritorno economico. Come si dice, neanche il cane muove la coda per nulla, no? Per niente. Secondo me è così. Purtroppo alla base di quello che poteva essere legittimata l'idea del bene, facciamo del bene, eccetera, secondo me non è facendo del bene. Ma che ci sia del business può anche essere, io posso anche capire, però bisognerà in qualche modo affrontare questa situazione migratoria che non ha precedenti. Secondo lei, dal mio predecessore, quello che ha parlato prima di me, secondo lei lo Stato è in grado di garantire un'accoglienza normale? Lo Stato che si è fermato in quel caso a pagare ad aprile queste cooperative Sindaco, questo è un altro aspetto ancora rispetto a quello che sta dicendo lei. Un conto è che lo Stato poi non sia in grado di adempiere a quei, anzi, il problema per coloro che si mettono a disposizione, perché quei soldi non li avranno. Le politiche di immigrazione e di accettazione di queste persone fa parte dello Stato. Lo Stato non può poi far ricadere quelle che sono le sue scelte personali sugli enti locali. L'abbiamo detto per primo noi che lo Stato sbaglia a non pagare le cooperative da aprile. Ma sbaglia a fare anche una politica di immigrazione per il quale lo Stato per il quale l'Italia non è più in grado di reggere, perché il sistema è scoppiato. No, perché lei evidenziava anche il fatto che ci sono delle spese che voi siete costretti a coprire come ente locale, tipo la sicurezza, cioè delle spese che poi lo Stato comunque non... Ma mi scusi, ma io ho fatto un calcolo, 22,50 euro, questo Pokémon lì che non so, non mi ricordo come l'avete chiamato, per 30 giorni sono 675 euro. Ma andiamo a chiederci come mai i nostri anziani hanno al massimo 500. Io arrivo da un paese dove la mia la percentuale più alta dell'anziana è colui che si è staccato la schiena nelle risaie. Ma voi avete Pocket in mente di quanto percepisce un anziano? È 2,50 euro quello che riceve. Ah, 2,50 euro al giorno. Allora diamoli anche ai nostri ragazzi che sono in difficoltà, i nostri ragazzi che hanno finito di studiare. Ma cioè, scusi, voglio dire, secondo sindaco, me è tutto da rivedere. Mi perdoni, va bene, ma se un migrante arriva 2 qui 2,50 euro loro, 35 la cooperativa, cioè non lo so quanto ci 2,50 euro, sono 2,50 euro di quei 35. Ma comunque se arriva qui che cosa dobbiamo fare? Lei è della Lega, tra l'altro, non abbiamo detto. Sì, io sono della Lega, ma io sono una persona di buon senso. Ma no, come che penso c'entra? Che tutti mica lo siano, lei, ma non l'avevo detto, e semplicemente l'ho precisato. Non era mica un insulto. Ma io non faccio mistero di essere della Lega, sono onorata non solo di essere della Lega, ma di essere una salviniana di ferro. Sì, ma va bene. Noi siamo contenti di questo. Il discorso è che chiaramente è in linea con le posizioni del suo partito, quindi è giusto. Ma ci mancherebbe ancora, ma anche perché le condivido. Ma lei provi a pensare, un sindaco come il mio, in un paese come il mio, dove la percentuale più alta è di anziani, questi che decidono di mettere l'immigrato, che io non dico bravo, non bravo, ha una ricaduta, ha un impatto sulla mia popolazione Dove lo mettiamo? Mi dica lei una soluzione, quindi cosa ne facciamo? Lo respingiamo, non lo facciamo arrivare? Questo lo deve chiedere allo Stato italiano, secondo me prima di farli arrivare ci vorrebbe tutto uno studio, se siamo ancora in grado di riceverli e che cosa gli Sindaco, comunque gli enti locali però fanno parte di uno Stato nazionale, quindi quando lei dice io non sono obbligata a seguire gli ordini della prefettura, è vero in parte, perché poi c'è anche un tentativo di accordarsi. Con la prefettura, mi dica la prefettura che cosa vuole. Sì. Allora, innanzitutto la prefettura mi deve dire che tipo di immigrati sono. economici. Non ho avuto domande dalla prefettura per eventuale manodopera in risaia, quindi non lo sono. Non sono profughi, perché prima di avere lo stato di profugo ce ne vuole, sono clandestini, ma voglio sapere chi mi porta in casa. Lo so, ma qui, io, sindaco, il problema è che si può sapere la cittadinanza, di sapere chi mi porta in casa, ma si può sapere a volte se uno è profugo solo al termine della procedura e quindi quando arriva qui. Comunque dobbiamo andare in pubblicità, poi tra l'altro Leonardo Manera, il nostro Leonardo Manera, ha sentito, sempre con il suo fare tra l'ironico e l'inchiesta stringente, un paio di cittadini, ha sentito qualche cittadino italiano a dire: ma lei ospiterebbe un migrante? Vabbè, tra poco lo sentiremo, state con... I funamboli. Allora, le 9:37 minuti, Veronica, il nostro Leonardo Manera ha chiamato un paio di persone così a caso, ha alzato il telefono e ha detto: ma lei ospiterebbe un migrante? Senti un po' che... Ciao Leonardo, intanto. Buongiorno a tutti voi. Senti un po'. Ciao Leo. Ciao Veronica. No, devo dire che poi, tra l'altro, sulla carta, in teoria, tutti sono abbastanza ben disposti a ospitare i migranti. Poi, quando si entra però nel merito, cambia l'approccio. Diciamo così. Pronto? Pronto, buongiorno. Qui è Radio 24. Stiamo facendo un sondaggio. Lei sarebbe disposta a ospitare un extracomunitario a casa sua? No, in questo momento no. Un po' più avanti? Sì. No, anche perché siamo donne e non, senza un maschio non mi sentirei sicura. Ma se le chiedessimo di ospitare una donna? Questa, no, in questo momento no. Questa persona che, alla quale stiamo cercando alloggio, si chiama Conan. Lei sarebbe disposta ad ospitare questo Conan? No, in questo momento no, assolutamente no. Però signora, mi permette di dire che lei è un po' prevenuta, perché lei non conosce Conan e potrebbe essere una brava persona. Va bene, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Buongiorno, qui è Radio 24, stiamo facendo un sondaggio. E lei sarebbe disposto a ospitare un extracomunitario a casa sua? Non avrei problemi. Per quanto tempo è disposto ad ospitarlo? Non per tutta la vita. A un periodo tipo un anno potrebbe andare bene? Due anni? Qualche mese. Qualche mese. Ha qualche preferenza sulla nazionalità oppure no? No. Quindi vanno bene tutti? Lei richiede anche un compenso oppure anche gratuitamente? Non necessariamente. Quando glielo possiamo mandare? Al momento no. Tra quanto tempo glielo possiamo mandare? Se glielo mandiamo tra una settimana, per esempio? No, non è possibile. Due settimane? Neanche. Che almeno... Un anno? Magari. Tra un anno o due glielo possiamo mandare? Sì. Un anno. Un po' lontano, un anno. E come facciamo? È un bel problema. Sì. Allora niente, non li possiamo far venire. Nella settimana prossima ci risentiamo tra un anno. Va bene. Abbiamo un appuntamento con un ascoltatore. Hai visto com'è cambiato? Prima non c'è problema ospitargli, mandiamo. Beh, no, adesso. Però tra un anno abbiamo... Ti sei segnato il numero. Dai, si scherza anche un pochettino. Conan. I'm waiting for Conan. Conan il barbaro. Allora, sono le 9:40 minuti. Noi vogliamo salutare il prossimo funambolo che è con noi. La notizia ci ha molto incuriosito. Una funzionaria dell'INPS che ha denunciato la sua dirigente, non vogliamo entrare nel merito del perché e del per come, e per questo da 5 anni è stata demansionata e in pratica non fa nulla. Questa è l'estrema sintesi. L'avvocato della signora è Giampaolo Attanizzi. Buongiorno avvocato, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei, io sono Giampaolo Stanizzi, sì, mi perdono. È un cognome difficile da far passare. Sì. Senta, perché si trova in questa situazione paradossale, kafkiana, insomma, di non fare nulla? Guardi, io definirei la signora Arcuri un eroe borghese, è un eroe borghese al pari del mio modello di avvocato Giorgio Ambrosoli. Sì. Un euro borghese, la però non facciamo paragoni così esagerati, azzardati un po'. Bisogna farli con tutto il rispetto per Giorgio Ambrosoli. La signora Arcuri è una è inquadrata nei ruoli INPS come funzionario direttivo apicale e da anni purtroppo è stata demansionata per il semplice motivo che un bel giorno ha voluto far luce sul curriculum vitae e professionale di quella che era stata nominata dirigente. Da parte dell'INPS c'è stata molta chiusura nella ostensione degli atti e di conseguenza l'INPS purtroppo le ha comminato varie sanzioni, costringendo la signora a rivolgersi ovviamente al magistrato del lavoro per fare annullare queste sanzioni. La Corte d'Appello di Catanzaro recentemente, questo nel maggio del 2017, è uscita con una sentenza che io definirei un piccolo breviario di etica amministrativa, la porterei in tutti gli uffici pubblici a farla reclamizzare, sì. Dove sì. Ha sottolineato in maniera pesante l'operato dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Parliamo dell'Istituto, le chiedo scusa, che eroga 1.800.000 pensioni all'anno, quindi non parliamo del comune, del piccolo comune scusi, dove queste cose. No. Avvocato, per ragioni di tempo, però ci spieghi anche bene che cosa è accaduto una volta che è stata fatta la denuncia all'INPS dalla sua assistita. Cosa è successo dopo? La denuncia nei confronti di chi? Ci sono vari procedimenti che sono stati incardinati sia davanti al giudice amministrativo che della sua, nel della momento sua in cui dirigente. Lei ha denunciato la sua dirigente. Sì, al momento non c'è nulla. No, ma nel senso che cosa le stiamo chiedendo, cosa è successo alla sua assistita all'interno del giudice? Lei in pratica è rimasta immobile. Il giorno no, si è autodenunciata in udienza pochi giorni fa davanti al Tribunale di Crotone, dove pende un processo contro ignoti perché la signora ha subito la violazione della propria stanza e del proprio computer. Lei, non sopportando più di non fare nulla, perché lei, le ripeto, è un funzionario direttivo apicale. No, questo apicale, è il punto, questo è il punto, dirigere. Avvocato. Lei questo va è il punto. In ufficio e non fa nulla, lei questo percepisce è il punto. Lo stipendio senza fare nulla. Spieghiamolo agli ascoltatori, dopo le denunce, dopo aver scoperchiato qualcosa, la sua assistita, che è funzionaria all'INPS, va all'INPS, è stata demansionata, quindi va lì, non fa nulla. Non fa nulla. Si è autodenunciata lei in un'udienza penale davanti al Tribunale di Crotone. Sostanzialmente è un demansionamento dal punto di vista delle funzioni, cioè lei va lì, percepisce lo stipendio ed è immobile, non fa nulla. Ma non fa nulla. E però si è autodenunciata dicendo non faccio nulla mica perché sono una sfaticata, ma perché ho voluto denunciare. L'INPS, più volte sollecitata a che le venisse dato l'incarico che le spetta, non ha dato mai risposta. Dato che la signora è in uno stato di prostrazione mentale, ovviamente le buon capire lo stress emotivo che deve affrontare quotidianamente. Ma scusi, avvocato, non c'è la nuova legge del cosiddetto whistleblowing? La signora non si è nascosta, la signora ha esposto se stessa, perciò le dico che è un eroe borghese, non si deve offendere. Ripeto, gli ho detto che Giorgio Ambrosoli è il mio modello di avvocato, quindi non volevo offendere Giorgio Ambrosoli. La signora non si è nascosta, il whistleblower è fatto per i vigliacchi, per quelli che vogliono denunciare e non apparire. La signora ha messo se stessa in prima fila. Non è vigliacchi. Whistleblowing sostiene che non necessariamente può garantire l'anonimato e non è obbligatorio dover dire chi sia. Non è la vigliacchi denunciare. Abbiamo avuto un vero eroe. Ha messo la sua faccia, ha messo il suo nome, la sua reputazione. È una signora che è molto conosciuta sulla piazza di Crotone, è una signora che è molto stimata, ha messo il suo voto davanti alle telecamere al magistrato e ha detto: io non sto facendo nulla da 5 anni all'INPS, lo ha detto in un'udienza pubblica penale. Chiaro. Avvocato, e invece della dirigente che cosa ne è stato? Nel senso, ci sono che stati poi stato? Secondo lei che cosa ne è stato? Non lo chiedo a lei perché siamo a parti invertite. È passata dalla direzione provinciale di Crotone a quella regionale, quindi è stata promossa, lei dice. Va bene, avvocato Stanizzi, intanto noi la ringraziamo per questo spaccato, cercheremo anche di approfondire questa vicenda, però ecco, c'è da dire, non è che chi fa whistleblowing è un vigliacco, questo almeno diciamolo, anzi se ci si è battuti tanto, abbiamo anzi una per far legge, passare anzi. Questa legge è stata un'epopea. Esatto. Quindi, comunque finalmente è il momento del traffico, cara Veronica, comportati bene anche se sei a Roma, perché è arrivata una scolaresca che ci guarda, ci scruta dal di là del vetro. Già dopo tutti con il sole 24 ore sotto braccio, pensa che anche destino sono. Già così, Dopo voglio chiedere loro una cosa importante, perché noi parleremo poi di lingua italiana più avanti. Quanti anni hanno le creature? 10, sono in 11. In seconda media. Vi fanno neri, attenzione. In seconda media. E c'è un insegnante che ha corretto un ragazzino a scuola, che ha scritto zebra, normalmente zebra, con una B, e gli ha detto no! Zebra si scrive con 2 B. Questo l'insegnante. Si vede zebra. Che era una zebra grossa. No, ma mi sa che stava a Roma. L'ha detto. Zebra. Ma ho capito, anche noi prendiamo in giro così il nostro amato Luca Telese, che dice pagina in rassegna stampa. Ma non è che se Luca scrive pagina, poi lo scrive con 4 G, lo scrive con 1 G, no. Ti devi adeguare al linguaggio reale parlato. La zebra. Ma chissà se gli ha anche abbassato il voto perché ha scritto zebra con probabilmente una... sì, ignorante, gli ha detto zebra, si scrive con due B, insomma, non si fa. Adesso dopo quando rientrano quelli facciamo un piccolo gli chiediamo con quante B si scrive zebra. No, dai, facciamo un piccolo dettato e vediamo chi se la cava meglio tra voi e loro. Li riportate un attimo dentro qui che glielo facciamo, provate a dirglielo, dai, il traffico intanto. I funamboli. Allora, eccoci qua, sono le 9.48 minuti. Sono rientrati tutti i nostri studenti qui al di là del vetro in regia. Sono di seconda media, no? Se non sbaglio. Allora, c'è una domanda che vi devo fare, dovete rispondere per alzata di mano. Tranquilli, tanto in radio non si vede niente. A casa non vi vedono. Allora, la parola zebra, sapete che animale è la zebra? Benissimo, hanno risposto. Allora, 12 ti hanno detto che hanno 12 anni. Possono spiegarti anche come da che lato. Diciamo anche mondo. Che solo uno ha detto di sì, però secondo gli altri non voi, hanno annuito. No, secondo voi come si scrive? Basiti. Aspetta, come si scrive la parola zebra? Cioè con quante B? B. Secondo voi, allora alzi la mano chi pensa che la parola zebra si scriva con due B, con due B, zebra, zebra. Nessuno. Con una B? Tutti, oh, tutti! Tutti! Oh, mandiamole a insegnare al posto dell'insegnante che ha detto che si scrive con due B, zebra, zebra. Come mai sentirti porre questa domanda? È polemico, è polemico. Hai visto come polemico? Le polemiche sterili rendeva di Alessandro Milan. Ma buffo te, come bravi, mai? Bravi, bravi i nostri studenti. Io propongo vabbè, questa facciamo rubrica. Una domanda più difficile però adesso. No, vabbè, dopo, magari dopo adesso... Pensala, tu pensa. Io adesso rifletti, eri lì però Intanto c'è Leonardo. No, io proporrei questa rubrica proprio le polemiche sterili di Alessandro Milan. Oh, questa te la appoggio completamente. La affianchiamo a Vero che te serve. Esatto. Allora, no, ieri c'era questo articolo sul Corriere della Sera che riportava un altro articolo dell'Economist secondo il quale il 2018 sarà l'anno della felicità. Bello, insomma. Secondo l'Economist nel 2018 il mondo prenderà consapevolezza che quel che conta davvero e che vale la pena di misurare è la felicità e non solo la ricchezza, quindi non solo i soldi. Da parte mia voglio essere utile all'Economist indicando 10 cose che secondo me possono aiutare ad essere felici. Allora, al decimo posto fare la doccia col soffione pulito, senza calcare, perché se fai la doccia col soffione pieno di calcare, dove scende solo un filo d'acqua, la doccia diventa un inferno. Soprattutto se c'è il boiler elettrico e dopo un po' finisce l'acqua calda che sei ancora insaponato. Al nono posto, per essere felici, il caffè è decente, un po' corposo, perché già alzarsi presto di mattina è una sofferenza. Se in più bevi un caffè che ti provoca la gastrite, in un bar dove c'è coda, tutti spingono, ti pressano, la giornata è già compromessa. All'ottavo posto, una vicina di casa carina, insomma, gradevole. Uomini, se dovete comprare casa, più che guardare la casa, guardate la vicina. Immaginate quando dovrete prendere l'ascensore con lei, che avrete sempre quei 20-30 secondi per provarci. Al settimo posto, una fidanzata non troppo gelosa, perché se c'è la vicina carina, la fidanzata si ingelosisce e poi non ne esci più. Al sesto posto, vivere in una zona dove ci sono pochi autovelox. Al quinto posto riuscire a prendere la metropolitana quando c'è poca gente, andare tranquilli al lavoro e non litigare sulle scale mobili. Al quarto posto andare con i propri figli a pochissime feste per bambini. Le feste di compleanno per bambini, per i genitori, sono sempre devastanti. Si passano ore a parlare con altri genitori con cui non sa niente in comune, si parla del nulla. Alla fine si finisce per rovinare la dieta, frutto di fatiche e rinunce, mangiando patatine, pizzette, popcorn, pezzi interi di torte Bin di fantasia nel dessert. Entri che sei un uomo, esci che sei un pezzo di colesterolo. Al terzo posto stare con una fidanzata che quando fa l'amore è rumorosa. Così l'uomo ha più soddisfazione, si sente più gratificato, fai bella figura con la vicina di casa e gli altri condomini ti invidiano. Anche se poi nell'androne condominiale trovi l'avviso di evitare schiamazzi, ma tu sai che l'hanno messo perché ti hanno sentito fare l'amore e godi della loro invidia. Al secondo posto avere alcuni amici, non tanti magari, ma nei posti chiave, un vigile per togliere le multe, un avvocato, un medico, così puoi scroccargli i pareri professionali quando lo inviti a cena. E al primo posto, ne abbiamo parlato ieri, avere un figlio, perché avere un figlio a volte ti fa preoccupare, arrabbiare, stare male, ma con lui capisci cos'è il principale, il primo, il vero amore, almeno fino a quando tuo figlio non diventa adolescente, perché poi diventa un inferno, ma non si può avere tutto dalla vita e comunque non bastano i soldi per la felicità! Oh. anche preadolescente, direi, comincia a essere un pre-inferno. È bene, questo così è un purgatorio, preparato. Ma è un purgatorio all'inverso, poi vai all'inferno. Magari un purgatorio, no, un pre-inferno. Io odio, io odio quegli hotel dove vai e c'è appunto la doccia dove esce solo quel filino d'acqua, è una cosa che ti amareggia per tutto, ti fa stare male. E invece tu devi stare bene. E quindi in quel caso per fare stare bene cosa si fa? Vai a discutere col capo dell'albergo, te fai cambiare stanza, lo minacci, prendi i tuoi amici delinquenti, gli fai dare manica de botte, così impara a mettere docce dove scende solo un filo d'acqua. Professore, io la penso spesso in questi giorni quando agisco, penso spesso a lei. Va bene, c'è Maurizio che ci chiama da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci, volevo dire che zebra si scrive con due Z. Nessuno coglie la battuta. Rido io per voi. Ecco, esatto. Ciao caro Manera, sono di Salò. Mio concittadino. Avete dei conti da regolare, ditelo subito. Un paesana, dai, diciamo così, dai. Vabbè. Ok, mi fa piacere comunque parlare con voi. Sì, aveva anche qualcosa da dire sul tema. A me fa piacere che abbia chiamato solo per salutarmi, così. Ciao, no, ma guarda che sei molto seguito, qua. L'ha detto anche in tono minaccioso. C'è molta gente che fa il tifo per te, non sto scherzando. Grazie. Maurizio, è tutto straordinario, vogliamo berci un caffè in piazza Salò. Ci vediamo lì. Purtroppo io ho una malattia degenerativa. Questo ci dispiace molto. Per il quale mi ha stoppato la vita, praticamente sono 7 anni che vivo in un letto. E non è, vi assicuro che non è bello, anzi colgo l'occasione per salutare tutte le persone ammalate, perché pochi lo fanno, dal fai cuore bene, un saluto bene, a tutte le persone ammalate. Vi abbraccio tantissimo. Volevi dirci anche qualcosa sui temi che abbiamo affrontato? Dire come fa il governo a intortare gli italiani. Ieri su tutti i giornali, Italia in crescita, come ogni tanto succede, no? Il PIL sta salendo, aumentano i posti di lavoro e tutto. Ma come fanno a delegare cose del genere se il debito pubblico è l'unica cosa che sale in Italia e tutti i nostri giovani vanno all'estero? Io ho 3 figli, ok? Fanno fatica a trovare lavoro. 2 sono laureate e il ragazzo giovane, non lo so, ha 23 anni e non so come farà a trovare lavoro, perché... Cioè, con questa storia del Jobs Act loro fanno questo calcolo, per 2 settimane un contratto di 2 settimane, un contratto di 6 mesi, un contratto di 8 mesi, e loro accumulano così la questione del debito pubblico. Ne abbiamo parlato, adesso non siamo esperti, ci sono trasmissioni di economia, ma insomma ne abbiamo parlato, è il vero, la vera zappa zavorra di questo paese. Siamo arrivati a 2.300 miliardi di debito pubblico, ma vi rendete poi conto? È sempre dove la differenza fra i dati e poi la percezione reale, la vita reale delle persone. E comunque se i figli vanno all'estero fanno bene, aprano la mente, trovino nuove opportunità, nuove vite. In particolar modo i tuoi si partono stasera. Sono un po' piccolini. Un abbraccio Maurizio. Grazie per averci chiamato e un abbraccio forte. Anche a tutta Salò, ovviamente. Dai, andiamo al giornale radio, poi alla seconda ora dei funamboli vi spiegheremo anche perché abbiamo parlato di zebra. Zebra. I funamboli. Cari funamboli, posso esprimere la massima solidarietà a quel signore di Padova? Avete sentito cosa ha detto? 20-30 anni fa non c'era nessun problema. Naturalmente immagino che per la compagna Veronica l'immigrazione non c'entri nulla. Marco da Roma Taxi, buongiorno a tutti. Vero, io so aspetta ancora che mi canti una canzone? Marco attende ancora un po'. Marco ha ragione. Tra stanco di aspettare. Domani è venerdì, canto. Sì, ti ha dato della compagna, ma non sarà molto d'accordo l'ascoltatore, che invece ci ha scritto un messaggio al 349-238-6666 dicendo: ma la ragazza che parla, grazie per la ragazza, potresti ringraziarlo per la ragazza. Cosa lo ringrazio? A 30 anni, quanti anni mi vuoi? Dopo 18 anni sei signora. La signora Veronica? La signora Veronica sarà mica anche lei una Renzi girl. Caro ascoltatore, adesso io capisco che magari uno non colga le sfumature degli interventi di una persona. posso assicurare che non mi pare, per quanto la conosca io, essere proprio una renzista. Però io devo dire che anche per quello che la conosco, io non ho capito esattamente la collocazione politica di Veronica. Secondo me è una persona molto critica. È critica, Veronica Gentili, critica la Gentili. Critica molto la critica, indubbiamente, ma critica la Gentili. Mi sto ancora sentendo male perché questo ascoltatore me ne hanno dette tante. No, adesso non esagerare. Questa non mi era mai stata detta. Allora, signori. Questo non è giusto, però. Allora. Questo non è giusto. Smettila. Allora, c'è Luciano da Vicenza. Che ci vuol dire, Luciano? Buongiorno. No, buongiorno. Volevo dire, Milan, che premesso che il pesce puzza dalla testa, che queste cose, sto parlando della signora dell'INPS, succedono sì. Perché c'è la dirigenza che non funziona, la quale dirigenza sappiamo che nel nostro paese va avanti, soprattutto per raccomandazione, carriere facili, clientelario, dicendo per vabbè, cui dai, non, sì, non facciamo abbiamo sempre... tutto, fatta questa non premessa. Non è che tu è sempre tutto così, i politici rubano tutti. No, io sono stato dirigente pubblico, quindi queste cose le conosco molto bene, molto bene. Allora diciamo che definire kafkiano il fatto che ci sia un dipendente pubblico che sta senza far niente è un po' così, diciamo, esagerato. No, qui sta senza far niente perché ha denunciato, perché ha denunciato. Era un po' quello tutto il senso della storia, cioè dopo aver denunciato la dirigente è stata demansionata a non fare nulla, dice, hai denunciato, stai lì, una squalifica. Sì, se voi navigate nel mondo dei sindacati troverete molto spesso queste situazioni di dipendenti che si lamentano di non fare nulla, è abbastanza diffuso questo fenomeno qua. Diciamo che la sorpresa che sì, qui c'è una cosa in più avere denunciato è stata per questo demansionata e messa a non fare nulla, e adesso lei si dice, è voluta, Luciano, beati loro che non fanno nulla. Adesso si è voluta autodenunciare a dire io non faccio nulla, ed è un'ingiustizia clamorosa, ecco questo. Comunque la ringraziamo. Beh, a me è capitato, io anni fa conoscevo una ragazza che lavorava proprio per un giornale, era una stagista, lei lavorava e invece quelli che erano legalmente assunti stavano a casa pagati perché il direttore non li voleva vedere, per esempio. Quindi loro erano a casa tranquilli, pagati, e quelli che lavoravano erano gli stagisti, quindi una situazione che a volte si verifica anche nel privato. Anche nel privato. Sì. Allora dai, alle 10:11 minuti, adesso vogliamo parlare un po' di musica e di lingua italiana, mettiamo tutto insieme. Che io sia, che io fossi, che io sia stato, oh. Oggigiorno chi corteggia incontra sempre più difficoltà, coi verbi al congiuntivo, quindi è tempo di riaprire il manuale di grammatica, che è molto educativo. Allora, il congiuntivo, questo è il titolo della canzone di Lorenzo Baglioni, che è qui con noi. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, Lorenzo. Ciao Lorenzo. So che Leonardo Manera lo conosci, forse? Sì, assolutamente. Sono conoscenze che purtroppo ogni tanto... Devo dire che io sono stato molto formativo per Lorenzo Baglioni dal punto di vista comico. È molto migliorato anche grazie a me. Cielo. E infatti si è dato la musica. Ma anche dal punto di vista dell'italiano. L'italiano ha aiutato Manera? Ah, incredibile. Sì, assolutamente. No, questa canzone andrà a Sanremo Giovani, il congiuntivo. Allora. Vorrei precisare, non proprio, ancora non è detto. Diciamo che andrà a una trasmissione che si chiama Sarà Sanremo. Dove vengono scelti i sei fra i 16 che sono rimasti che andranno a Sanremo Giovani. Ma tra l'altro la curiosità è questa, ma perché si possono far sentire prima? Adesso non c'era prima la... Meraviglioso, ma infatti addirittura... Perché c'è il nuovo direttore! Quando ho fatto uscire il video la gente mi ha detto attento perché non lo puoi far uscire. No, in realtà allora da un po' di anni le canzoni di Sanremo Giovani sono online prima. Quelle dei big vale sempre la regola. Ancora non si può con quelle dei big. Non devono essere assolutamente edite. Lorenzo, la prima domanda. Ovviamente tu sei il nipote di Claudio Baglioni, direttore del festival. L'unico motivo per cui sono esattamente come io sono la nipote del direttore. Se la gente ci crede veramente, noi alziamo le mani. In epoca di fake news. Tu non capisci il potere della radio. La gente adesso crederà, ecco, sarà saranno già in 100 a dire figurarsi. Ecco, comunque è singolare che in un festival di Sanremo dove il direttore è Baglioni ci sia un Baglioni che Baglioni. Non è parente, non questo è bisognerebbe parente, verificarlo per bene. Io comunque non sono lo proprio stesso sicuro. È stato scelto perché si chiama Baglioni, lui ha sentito Baglioni, ha detto allora lo prendo perché sarà mio parente, anche se non me lo ricordo. Allora Lorenzo, perché una canzone sul congiuntivo? No, volevo dire una cosa riguardo, no, che io sono stato scelto solamente per questo. Non sono parente, ma il mio sogno è sentire Baglioni alla festa di Sanremo che presenta una canzone di Baglioni, scritta da Baglioni e Baglioni, perché c'è anche il mio fratello e sto cercando un maestro d'orchestra che si chiami Baglioni. Così dirige l'orchestra il maestro Baglioni. E adesso lo cerchiamo, lanciamo subito, capito? Un appello, direttori d'orchestra di nome Baglioni. Esatto. Riunitevi, unitevi. Esatto. Vabbè, perché poi Baglioni è un nome d'arte. Io l'anno scorso mi chiamavo Lorenzo Conti. Io cambio ogni anno nome d'arte a seconda del direttore del festival. Certo, questa Conti, l'anno prossimo chissà. Due anni fa, non so, Fazio ti puoi chiamare. Sì, esatto. Lorenzo Fazio. Provo sempre a presentarmi con un nome d'arte. Vabbè, allora però facciamo così, aspetta, dobbiamo presentare un altro ospite, andare un attimo al traffico e poi capire perché il congiuntivo. L'altro ospite che presentiamo è un graditissimo ritorno, il presidente dell'Accademia della Crusca, il professor Claudio Marazzini, che è stato buttato in questo ring culturale. Professore, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Voi, gli ascoltatori. Perché buongiorno. Forse andrà a Sanremo una canzone sul congiuntivo e allora professore, ci dica la verità, l'autore del testo è lei? È lei. Confessi. No, naturalmente no, però non è strano che l'italiano voli sulle ali della musica, perché certo nella grande tradizione antica viaggiava col melodramma, con i cantanti italiani, però va bene anche che si appoggi alle canzoni. Poi non è la prima volta, perché c'è un cantautore non so quanto famoso che opera in Belgio, italiano, che ha fatto una canzone, si chiama La Riccia. Ha fatto una canzone sul piuttosto che, su quell'orribile uso di piuttosto che. Ma è andato in Belgio perché in Italia non ha avuto nessun successo con una canzone così. Cioè, avete capito il presidente dell'Accademia della Crusca come addirittura di usare il logo dell'Accademia, ma questo non gliel'abbiamo dato. Io ho concesso di usare la fotografia della facciata del palazzo dell'Accademia, ma poi non se la fanno. No, capite come è preparato anche sulla musica. Allora, giustamente perché hanno perso la speranza di veder diffondere l'italiano in altro modo. E poi rientriamo con Lorenzo Baglioni e professor Claudio Marazzini. I funamboli. Eccoci qui, allora, Lorenzo Baglioni, ritorniamo alla domanda originale, una canzone sul congiuntivo, perché questo soggetto un po' singolare per una canzone da portare forse a Sanremo? Assolutamente, innanzitutto perché io sono il primo che cerca di essere educato da questa canzone, mi sono detto che non so ancora usare effettivamente il congiuntivo, ma il mio sogno è saperlo usare. Anche perché, ora non so se è il momento più adatto, se c'è anche il professore al telefono, ma io sono convinto del fatto che non ci sia niente di sexy quanto un congiuntivo. Ecco, questo era il grande quesito che volevo lanciare anche agli ascoltatori. Vi prego, mandateci messaggi e rispondeteci. Il congiuntivo è sexy o no? Sì. Io sono convinta che sia incredibilmente sexy. Dipende che donna incontri. Dipende. Incredibilmente sexy. Un uomo che azzecca tutti i congiuntivi prende già un sacco di... Se la donna è in grado di riconoscerli, diciamo. anche questo è vero. E non questo mi sono detto, perché non provare a spiegarlo con una canzone, quindi in un modo un po' diverso dal modo standard, per vedere se più gente possibile riesce poi a impararlo e anche io. E quindi questo è stato il motivo che mi ha acceso la lampadina. E proviamo a scrivere una canzone sul congiuntivo. È interessante. Professor Marazzini, non avrebbe mai pensato l'idea di considerare sexy il congiuntivo? Dal punto di vista linguistico forse lo è, nel senso che è raro. Più che... Questo sospiro ha già detto tutto ormai. Il congiuntivo è cool, va bene. È cool. Però, professore, forse è sexy, ma secondo me non è seduttivo, perché i politici quando parlano non lo usano mai, dicono sempre credo che è, per esempio. Forse perché pensano di essere più incisivi così? Penso che sì, danno più certezza alle loro promesse, così non sono opinioni ma sono certezze. Ma forse danno anche più la sensazione di parlare come la gente con 4G, no? Sì, purtroppo c'è questa discesa verso il basso. I modelli, livellandosi verso il basso, perché la sensazione è un po' quella che se si utilizzano i congiuntivi è perché si vuole mettere una distanza, no? Frapporre una distanza con l'interlocutore, si sta utilizzando un linguaggio Però attenzione, bizzarro, professore, non c'è anche una lingua parlata che in qualche modo, è vero, non è regolare dal punto di vista delle regole canoniche, però si impone poi negli anni rispetto alla regola classica. della grammatica. Sì, ma certo che c'è una lingua parlata, questo può riguardare il congiuntivo nell'ipotetica della realtà, della irrealtà, no? Quando uno dice, è molto formale dire se avessi saputo sarei venuto, e quindi qualcuno dice se sapevo venivo. Dipende dal contesto in cui ci si muove. Però certo, l'orecchio non ha un fastidio, l'orecchio, quando sente anche queste cose, anche nel parlato normale? A me stona sempre un po'. Intende dire col congiuntivo o con l'indicativo? Sì, sì. No, con l'indicativo. Con l'indicativo. Se lo sapevo venivo. Credo allora, che queste cose mi danno sempre un pochino di vago fastidio all'orecchio. Ma se nelle pareti domestiche, parlando a pranzo con i figli e la famiglia, non è una tragedia. Però naturalmente quando si è in un luogo pubblico, quando si fa un discorso ufficiale, quando si vuole usare un po' di forma, il congiuntivo c'è, ha il suo significato. Poi naturalmente il congiuntivo più abbandonato è proprio quello che dipende dai verbi di opinione, quello che dicevate prima, quindi penso che è così. Invece di dire penso che sia più, non so se è sexy il congiuntivo, sicuramente è un'elegante sfumatura di concessione alle tesi dell'interlocutore. Non lo so, vediamo. Così. Lorenzo no. Baglioni, quante donne pensi di conquistare con i tuoi congiuntivi sexy? Forza. Ma non lo so, forse ne conquisterò di più facendo pensare alla gente di essere veramente il nipote di Claudio Baglioni. Sì, forse, però ci provo anche con il congiuntivo. Ma la cosa che io sento adesso è che ho un terrore a dire qualunque cosa, perché ho il terrore di sbagliare il congiuntivo. È chiaro. Non so se voi siete un po' in questa situazione psicologica. Beh, poi di fronte al presidente dell'Accademia della Crusca io ci parlo. Ci siamo infilati veramente in un cul-de-sac, per cui qualora sbagliassimo un congiuntivo adesso sarebbe graverrimo proprio. Assolutamente. Va. Ecco. Ma infatti vorrei rispondere soltanto sì o no d'ora in poi, soltanto yes or no question. Cioè, per esempio, se ti chiedessi il congiuntivo trapassato del verbo essere... No, assolutamente. Queste sono le domande a cui non voglio mai rispondere da qui alla mia... Ma tra l'altro, Lorenzo Baglioni è recidivo in questo tipo di canzoni, perché ne aveva fatto un'altra, se non sbaglio, che era La legge di Keplero, giusto? Esatto. Dove tu parlavi... un argomento più vicino a me, perché essendo laureato in matematica, effettivamente avevo fatto una canzone sul teorema di Ruffini, sulle leggi di Keplero, quindi diciamo la canzone del congiuntivo fa parte di un format che è nato un po' di tempo fa, ovvero rendere la didattica più accessibile a tutti. Però ecco, perdonami Lorenzo, uno che ha fatto matematica, come è finito a cantare il congiuntivo accanto a Claudio Baglioni che lo annuncia? Spiegaci perché c'è... Allora, la scelta del congiuntivo nasce quando ci siamo detti con mio fratello e con le persone che poi curano questo tipo di format, perché non proviamo a spaziare in vari argomenti della didattica, quindi a non restare soltanto circoscritti al settore scientifico, e quindi ok, prendiamo anche la grammatica italiana. Che cosa si potrebbe dire sulla grammatica italiana? Beh, cioè, il congiuntivo è un po' cliché del fatto che noi non lo sappiamo usare, e quindi abbiamo detto perché non farne una proprio sul congiuntivo. Poi ce n'è anche una sulla filosofia, ce n'è una sull'apostrofo, però e poi un progetto completo. Tra l'altro, professor Marazzini, arriva un ascoltatore, ci manda un messaggio, Carlo da Latina, dice: sono traduttore, trovo che i congiuntivi sbagliati e soprattutto il piuttosto che siano dei crimini contro le istituzioni repubblicane, forse qui contro la l'umanità in maniera un po' esagerata. Ma come si fa, professor Marazzini, a recuperare un po' di senso della grammatica? L'ha letta anche lei la notizia della maestra che ha corretto l'allievo dicendo: no, zebra si scrive con due B, sbagliato, errore. Che dobbiamo fare a quella maestra? Ma dunque, non dobbiamo, prima accennavate alla paura di parlare, eccetera, non si deve arrivare a questo, cioè certo. non deve essere, la lingua non deve intimorire l'utente, questo non va bene. Si può riflettere sulle cose anche in maniera scherzosa, per questo sono benvenute canzoni come questa di Baglioni di cui voi parlate, o anche come quella di Laricia sul piuttosto che, perché servono a riflettere senza rendere drammatica e repressiva la riflessione sulla lingua. non so se adesso è esagerato di parlare appunto di crimini contro lo Stato. Tra l'altro, questa mattina qui in Crusca abbiamo la visita della Presidente della Camera, le chiederemo se se ritiene questo un reato contro e invece quella maestra che dice zebra può continuare a insegnare, secondo lei? Ma non o merita essere... una scomunica della Crusca? Ma scomunica la Crusca, evidentemente in tutte le professioni capita che si infili qualcuno che è meno adeguato, che quel giorno aveva mal di testa, ha detto una stupidaggine, insomma, ci sono gli errori dei medici, non stiamo anche in questo a distruggere una persona. Sì. Certo, è evidente che prima dicevate Abbaglioni ha fatto la canzone su Keplero, sul problema di matematica, ora sulla lingua, è normale, intanto un problema di lingua, di matematica, come viene esposto, come lo si spiega con la lingua? Quindi è chiaro che la lingua è trasversale a tutti i contenuti disciplinari, come e questo no? va sempre tenuto presente, perché i primi a lamentare, per esempio, che gli studenti non riescono a risolvere i problemi perché non capiscono la formulazione del problema in lingua italiana, sono proprio gli insegnanti di matematica, vi l'ho sentito dire da loro. Quindi l'importanza della lingua è fondamentale e non dobbiamo dimenticarla mai, non dobbiamo disprezzarla, trascurarla, sostituirla con un eccesso di parole forestiere anche. Cose del genere. Professore, prego. No, io volevo solo chiedere al professore se a suo parere in una scala di valori sociali il parlare bene o il parlare male ha ancora, diciamo, dal punto di vista sociale un giudizio oppure non lo si nota più, insomma, ci sono molte altre cose più importanti, ecco. Ma io credo che lo si noti come tra l'altro le cose più importanti quali sarebbero? Sarebbero forse parlare bene inglese. Beh, per imparare bene una lingua straniera si deve partire da una lingua naturale, primaria, ben conosciuta, perché altrimenti è difficile che io possa spiegare a uno come in inglese si usa il verbo per fare delle ipotesi, se non so a che cosa corrispondono in italiano. Quindi, perché si deve partire da una padronanza linguistica assoluta per poi poter fare naturalmente un... perché altrimenti se si parte da una mezza lingua si arriverà sempre a un quarto di lingua perché poi si va in calo naturalmente con tanto noi Presidente la lasciamo all'importante visita del Presidente della Camera Laura Boldrini, grazie Presidente dell'Accademia della Crusca Claudio Presidente, Marazzini, ma tanto la richiameremo molto spesso, guardi. Salutiamo anche il nipote, no nel senso salutiamo Lorenzo Baglioni e lo ringraziamo. Come si augura il bene senza portare sfiga? Cosa si dice come a teatro? Cosa ti dobbiamo dire, insomma? Non so Lorenzo. Se in questo caso vale merda. Non lo so. Ma io lo direi. Ma perché se io direi un merda che ci può sempre stare. Va bene, merdissima, grazie mille. È stato un onore anche conoscere telefonicamente il Presidente della Camera. Quindi sono stato molto felice. Non vota per farti entrare a Sanremo. No, però gli abbiamo dato una bella legittimazione. Un po' se la può tirare adesso. Sì, esatto. Ciao Lorenzo. Ovviamente spieghiamo che questo merda si dice a teatro, no? Per portare bene, non è che siamo. Mamma mia, quante giustificazioni! Sempre, perché altrimenti pensano che ti è venuta la sindrome di Tourette. C'è Paola da Udine che ci scrive il messaggio più bello del mondo per far crescere la nostra autostima. Sono talmente malata di funambolismo che mi trascino la radiolina per la casa, non perdo nulla. Naturalmente, durante la messa in onda, l'aspirapolvere resta nell'armadio. Grande Paola! Adesso dureremo fino alle 14, quindi potrai lasciare la casa invasa dagli acari. Perché, colpa nostra, per capito? Colpa nostra. Dicendo agli acari, aspettate un istante che ci sono i funamboli. Va bene. Ma secondo voi che vuol dire un messaggio che dice che il congiuntivo discrimina socialmente? Altro che sexy, chi lo usa ha studiato la grammatica italiana ed è in grado di fare analisi della frase. Non ho capito benissimo. Io non ho capito se è a favore o contro. No, esatto. È a favore, io, ma... Andiamo alla borsa, vai, poi cerchiamo di dirimere. Comunque il congiuntivo questione. Lo trovate sexy o no? Ditecelo. I funamboli. Come si scrive? Veronica o Verronica? Ma nera, son Battista da Cavaglion Veronese e non te capisce da che parte viene la Gentili perché non ti gana intelligenza. A Roma a zebra c'ha dubbi e due eri. Va bene, si sono scatenati i nostri ascoltatori, Leonardo, anche Battista, okay. Hai visto che... Anche con due R, al zebra, si dice così a Roma, Veronica. No, due R, no. Zebra, l'R non tanto, zebra, basta un B, ci devi mettere pure due R. Va bene, sarò fissato, Veronica, ma trovo Leo molto più sexy di qualsiasi congiuntivo, indovina un po' chi è. Oh, Michele da Firenze. Grazie Michele, sempre grazie. Cioè, grazie Michele. Grazie, lui sempre... Michele, grazie, grazie. Allora, comunque, vi dico che i messaggi stanno assolutamente trovando sexy, attestando il fatto che il congiuntivo è incredibilmente, vogliamo anzi, salutare, sia incredibilmente sexy. Vogliamo salutare anche Francesco piastrellista, che come Paola da Udine dice: anch'io dopo anni ho abbandonato Radio DJ, brutta, e ascolto solo Radio 24 ovunque. Bravo il nostro Francesco piastrellista. Guarda che c'è Piero invece da Catanzaro che lì da un po' lo ringraziamo molto. Piero, eccoci, buongiorno. Il paziente Piero. Buongiorno. Comunque da Catania. Da Catania. Intanto, vabbè, ma Catania, Catanzaro, cambi regione. Che ti abbiamo dato del calabrese, insomma. Cosa vuoi? In parte lo sono perché ci lavoro anche lì da quasi 15 va anni. Bene. Dai, però sì. Catania è Catania, è una delle città più belle d'Italia. Cioè, non ti ho mica detto che sei di Palermo, Piero. Intanto volevo partire dalla cosa più importante. Fatemi salutare la donna più bella, più simpatica e più intelligente del panorama italiano. Oh, la nostra Elisa Pancaldi insieme a Elisabetta Fusconi, ma grazie, porteremo i saluti. Certo. Assolutamente la nostra. Certo. No, comunque complimenti. No, io volevo, grazie. Non mi voglio rubare troppo tempo, volevo fare solo una riflessione e poi forse mi direte che sono forse anche da un altro punto di vista populista, però la riflessione è questa. Io sono originario di un paese del profondo sud, in Sicilia, dove esistono, colpito dall'emigrazione ancora oggi, mancano circa 15.000 persone all'appello su 35.000. Ci sono diverse comunità di extracomunitari, molti sbarcano direttamente sulle nostre spiagge, i cosiddetti sbarchi fantasma. Non ci sono mai stati reati di particolare, diciamo, non lo viviamo come un problema, forse perché ne abbiamo degli altri di problemi, non lo so. Allora, tutti questi enti locali, questi sindaci, presidenti di provincia e quant'altro, che si inventano le norme più assurde, il mendicante mi fa inciampare e quindi è un problema per l'ordine pubblico, e la comunità che è diventata un albergo a 5 stelle. Allora, secondo me, e concludo, nascondono una, voglio essere gentile, una ipocrisia di fondo. Poi potrei anche dire un'intolleranza serpeggiante e forse, perché no, anche il razzismo. Vabbè, Piero, mettiamo tutti insieme. Forse sono razzisti loro e intolleranti loro che amministrano gli amministratori, o forse sanno di intercettare il consenso da parte popolare. Forse questo è probabile. Piero, grazie insomma, per questo intervento appassionato. Grazie Piero per una voce fuori dal coro. Allora, c'è da dire che il messaggio migliore è di una donna che dice: penso che Baglioni mi ha conquistata. ovviamente poi aggiunge con tanti risolini: penso che mi ha conquistata. E devo dire, Veronica, che arriva anche un messaggio. Ecco, adesso arrivano le dichiarazioni d'amore. Proprio, volevate fare una dichiarazione d'amore a Veronica? Veronica, io non sbaglio congiuntivi, con tanti cuori. Veronica fa questo programma per trovare marito alla fine. Sì, ecco. Ma non era cioè, per... cioè, il contadino cerca moglie e Veronica cerca marito. Ma non era per trovare cose, insomma, per trovare oggetti, per trovare averò che te serve. L'abbiamo un po' abbandonata questa. Di fondo, un marito non è una cosa. L'oggettualizzazione dell'uomo come quella della donna. Oggettualizziamolo. Com'è. Signori, è il momento dei furbi. È il momento di defurbizzarvi. Defurbizziamoci. Senti com'è non fare anche proprio, la pausa scenica, però, per favore. Momento di defurbizzarvi. Allora, Donatella, buongiorno Donatella. Buongiorno Alessandro, buongiorno come a va? Tutti voi. Cosa ha combinato? È bello perché sono rare le donne che si defurbizzano, sono più gli uomini. Sì. Tendono a tenerla cara per la quello furbizia. Che ho chiamato, perché noi siamo un po' più infingarde, non le raccontiamo le cose. Infingarde. Donatella, allora, molto giustamente. Beh, certo. Cosa però, ha fatto Donatella? Quanti anni fa soprattutto? Stiamo parlando degli anni 70, comunque premetto che non è l'unica birichinata che ho fatto, hanno fatto anche di più sofisticate. Però questo va subito specificato. Subito perché siamo... Però questo qui è sempre stata molto simpatica. Allora, erano gli anni 70, 72 o 73, e io mi trovavo con un'amica a Francoforte perché studiavamo all'università. E per mantenerci agli studi facevamo ogni genere di lavoretto, no? Di quello, so, pulire le patate, servire, certo, bere ai tavoli, mettere le targhette sulle maglie, facevamo di tutto. Ma ogni mattina per un anno intero, dalle 6 alle 8, lavoravamo al Kaufhalle. Il Kaufhalle penso che sia ancora una grande catena di supermercati. Io lavoravo nel reparto Metzgerai, che è la macelleria, e la mia amica nel reparto latticini. Eravamo bravi, in quel tempo lì lavoravamo, studiavamo, non ci lamentavamo neanche. Comunque questa era mia. E poi volevo dire un'altra cosa prima di dimenticarmi: vive i congiuntivi. Vive i congiuntivi, va bene. Allora, che cosa dovevo fare io in questo, quelle due ore al mattino? Era impaccare pezzi di carne, già tagliati da qualcuno prima, pesare la confezione e mettere il prezzo riferito al tipo di carne. E poi dovevo prendere tutte le confezioni, metterle nel carrello e portarle giù nel reparto vendite, nel frigo, no? Al reparto vendita. Ogni tanto però ci capitava di dover prendere il posto alla cassa, no? E così io scoprì che nessuna cassiera leggeva mai le etichette, no? Sì. Cioè, prendono il pacchetto, certo, quindi bastava mettere, vieni fuori la furbata, sì, bastava mettere il prezzo di una carne più scadente, no? Per esempio, non so, un maiale, su un bel arrosto, un pezzo di arrosto di vitello. E lei lo ha fatto? La carne ha lo stesso colore, no? Sì. Poi si portava, certo, nello scaffale. Si metteva in una certa posizione sperando che qualcun altro non lo comprasse prima di noi, e finito il turno andavamo a comprarlo e a pagarlo alla cassa. Cioè, quindi una truffa sofisticata, perché non è quello che va alla verdura, al reparto verdura, mette dentro, no, che ne so, l'avocado e poi pesa lo paga col prezzo delle zucchine. No, cosa che io non ho mai fatto, quindi non capisco bene di cosa stiate parlando. Esatto, sai, però sapevi subito avocado, zucchine, tac, tac. Per quanto tempo è andata avanti con questa? È andata avanti per cioè, Donatella è straordinaria, perché prima come lavoratrice confezionava con una piccola truffa, un piccolo raggiro, una furbizia, sì, una furberia, no, la un carne. Raggiro, era un raggiro. Un raggiro. Io vi posso dire una cosa, la mia amica lavorava nel reparto latticini, no? Sì? Lei tagliava i formaggi, faceva la stessa cosa con i formaggi. Anche lì. Quindi oltre che a divertirci un mucchio, perché a quell'età lì avevamo circa 20 e passani, ci divertivamo, sì, un matto, facevate qualche di riuscire truffa a fregare un po' gli amici tedeschi, riuscivamo anche a mangiare bene con pochissima spesa. Senta, volevo darle una notizia, volevo dirle che quella catena di supermercati è fallita. Credo nel 75. È da lì che non riusciamo più a reperirla, no? Anche la cercava in giro Donatella. Non c'è più. Donatella, io volevo darle un'altra notizia. In Germania hanno abolito la prescrizione. Allora, porca miseria, io vi ringrazio moltissimo. E mi defilo. Riattacco la cornetta. Comunque, Donatella, io vorrei andare a fare la spesa con lei. Organizziamoci. Sì. Ci diamo un appuntamento. Poi altri segreti, va bene. Vedi, ci accontentiamo di questo. Questa era proprio la punta dell'iceberg. Vabbè, ma poi me li racconta a me, Donatella. Tu non ti preoccupare. La cosa bella, secondo me, è il sottile piacere e anche senso di attesa che provava Donatella nel momento in cui sperava che nessuno acquistasse, esatto, il prodotto. Lo mettevano sotto. E la rabbia quando ti accorgevi che qualcuno se n'era accorto. Con il mio lavoro, la sua truffa, spalle, diciamo. La sua truffa, il suo lavoro. Mi ha fregato il pezzo di arrosto, che era sempre è incredibile. Cioè, truffato e la truffatrice. Esatto. Comunque, Donatella, arriva la nostra patente. Attenta, eccola qua. Si ripari. Sì. Defurbizzato. Vabbè, defurbizzata, ce l'abbiamo anche al femminile, ma va bene oggi così. Oggi polemizza. Defurbizzata. Non solo la mitragliata, ma anche defurbizzata. La nostra Donatella, grazie. Se volete essere defurbizzati come lei, funamboli@radio24.it e scriveteci, noi vi defurbizzeremo. E poi è bello, comunque c'è il ripescaggio a fine anno per la persona che andrà in galera. Insomma, cioè, degli incentivi importanti, fatelo, sono esperienze di vita. Esatto. Oggi a Vero che te serve ti abbiamo offerto un congiuntivo al massimo. Ho capito, oggi ho beccato un po' di congiuntivi. Forse però, un posto in un centro migranti potrebbe rimediare, ma non so se... Questo vabbè, possiamo vedere, posso comunque pensare di andare anche lì. Ti voglio dire che mi ha riscritto il mio amico di Alba, dicendomi che lì una bella cavalcata è sempre disponibile, e anche una cavalcata derenzizzata, mi hanno detto, quindi sì? Insomma. Va bene, ottimo. Se però a noi manda del vino da quelle parti, a noi va benissimo. Perché la cioccolata possiamo parlarne o vogliamo lasciar correre? No, è perché parliamo delle cose quelle che pesano. Che contano, che contano. Dai, ecco, la cioccolata è un ottimo modo per sedurre. Sì, più che la cioccolata, tu stai pensando non proprio alla cioccolata. Vabbè, ma non possiamo fare pubblicità, dai, adesso non... Il traffico. I funamboli. Allora, abbiamo un piccolo problema che dobbiamo risolvere, Veronica e Leonardo. Sì, perché un'altra signora, evidentemente anche lei casalinga, ci ha scritto: siete fantastici, mi fate impazzire da ridere, c'è un problema però, perché l'aspirapolvere rimane spento. Allora, sono già due donne che ci dicono che invece di mettere a posto la casa sono qui attaccate alla radio. Però abbiamo capito che la nostra trasmissione è utile agli acari. Gli acari. Oppure, ecco, ho trovato una soluzione ottima. Allora, voi accendete l'aspirapolvere, no! Inizieremo a urlare così, in modo che questo non è il massimo. Potrebbe essere buono. Poi non so se aiutiamo l'equilibrio nervoso di tutti gli altri invece. Però possiamo provare. Mettiamo la portare la voce come se fossimo al teatro di Siracusa. No. Abbandoniamo questa la targhetta trasmissione amica degli acari. Va bene, esatto. Questa noi è la trasmissione. Amici degli acari. Potremmo fare una controsigla, insomma, la trasmissione più amica degli acari che voi abbiate mai conosciuto. Comunque voi potremmo anche fare una piccola convenzione per cui, per esempio, tu la sera vai a passare l'aspirapolvere dalle signore che non sono riuscite durante il giorno. No, ma non so se hai notato che voi abbiate mai conosciuto. Non so, vorrei qui a Radio 24 siamo ad alti livelli di utenza. Che voi abbiate. Ha imparato. Allora, due Leonardo. Congiuntivi stamattina. Buongiorno a tutti, sono qua. Peter da Parpo. Oh, Peter! Mi fa piacere che abbiate parlato dei congiuntivi. Bravo Peter! Sì, perché penso che sia importante esprimersi nel modo corretto. Può mettere un ting ogni volta? Bravo. Uno che scrive il Galateo può non parlare. Perciò così. Se io fossi in voi, diciamo... Beh, fossi Peter! Però, Peter non li riconosce. Che non riconosce Peter Bescabè, non riconosce i congiuntivi. Quindi, no, questo non è Peter, ti sta mancando di rispetto, non glielo mettere più. Se io fossi in voi continuerei con questa linea, perché ritengo che sia non li riconosce. Batto le mani. Faccio io Peter. C'è importante il congiuntivo e anche l'educazione, quindi porto avanti questo corso di Galateo contemporaneo per insegnare alle persone come comportarsi correttamente col Galateo in questi tempi difficili. Quindi diciamo, cominciamo con le prime domande. È educato il lancio del riso sugli sposi all'uscita della chiesa? No. Sì, ma solo se il lancio non è troppo violento. Sì, ma solo se gli sposi si sono sposati volentieri. La risposta esatta è sì, ma solo se il riso non è troppo condito, cioè si può mettere all'olio al massimo, al burro, ma col sugo no. Come comportarsi se si è colti da uno sbadiglio in presenza di altre persone? La mano. Si trattiene lo sbadiglio gonfiando le guance. Si dà sfogo allo sbadiglio stirando le braccia e accompagnandosi con suoni gutturali? Risposta esatta? Sì. Si sbadiglia ripetutamente spiegando che ci si sta annoiando a causa della compagnia poco interessante. Perfetto. Quando si invitano ospiti a casa, come comportarsi con il proprio cane? Si può permettere al cane di annusare e leccare gli ospiti, ma solo se il cane non ha mangiato pesante. Si può permettere al cane di rimanere sotto al tavolo durante il pranzo in modo che possa saltargli sui genitali per avere qualche avanzo? Questa la risposta buona. Esatta è: prima del pranzo o della cena si vende il cane in modo che dia fastidio. Quale dei seguenti comportamenti è corretto durante un viaggio in aereo? Chiamare spesso le hostess per cercare di ricavare almeno un numero di telefono? Attenuare la paura bevendo alcolici? La risposta esatta è: per scaricare la paura, parlare col vicino di drammatici incidenti aerei. Bene, complimenti. Non so se è mai capitato. Una diciamo... volta l'ha fatto mio figlio, dice: ma adesso cadiamo. Oddio! Quale dei seguenti comportamenti si addice a un galantuomo che va a prendere, questa per Alessandro Milan, un galantuomo che va a prendere una signora con l'automobile? Sì. Scendere dall'auto per lasciar guidare l'auto alla signora. Cioè tu scendi e dici guidi lei. Potrebbe. Far salire la signora in auto e accendere la radio ad altissimo volume per evitare l'imbarazzo della conversazione. Beh Veronica, questa effettivamente ti ringrazio, non sarebbe molto, grazie, sei però caro. Temo che la giusta sia. Esatto, appena sale in macchina la signora, attaccare lo specchietto retrovisore un ciondolo con profilattico incorporato per sottolineare le intenzioni non per la serata. Non lo farebbe mai Alessandro Milano. Incredibilmente chic questo, sì. Allora, le ultime due. Come è educato che si siede un gruppo di amici al cinema? Il gruppo si sparpaglia nella sala per fare nuove amicizie? Il gruppo si siede a coppie per poter limonare? Risposta esatta: gli uomini si siedono lontano dal signore per poter mangiare i popcorn in santa pace. Questa forse potrebbe avere un suo perché, eh? L'ultima: quale dei seguenti omaggi floreali una signora può inviare a un uomo secondo il galateo tradizionale? Ah, interessante. Sì, perché normalmente, diciamo, la donna secondo il galateo non potrebbe proprio inviare omaggi floreali. Ah, però ecco. Si può in alcuni casi. Quando sono solo fiori secchi, solo piante grasse, risposta esatta: da 1 a 10 un numero di rose corrispondente al giudizio sessuale di gradimento che la donna assegna all'uomo. Questo mi sembra importante, prendo. Aspetti che segno un attimo io. Allora, vedi Giuseppe, sessuale, facciano tutti fiori. Come me, radiolina il collo e cuffie, Maurizio, le cuffie, oppure molte donne ci scrivono: io vi ascolto mentre stiro. Quindi... Beh, no, diceva che anche chi ha lo stesso problema con il microonde e l'acqua nel lavello, invece, che anche quelle fanno rumore, quindi... Sì, c'è anche chi ci dice che siccome sono tanti a casa sua li chiamerebbe Accari con due C, Accari come zebra, zebra, Accari. C'è Alessandro da Pavia, vediamo se concludiamo con lui. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a tutti voi ragazzi. Eccoci. Allora, come ho già anticipato alla vostra gentilissima centralinista... Sì. Nell'intima d'azione, come piace dire a Nicoletti, mi trovo in un atteggiamento di intimità con una partner. Sì. E io ne ho viste, insomma, sono una persona abbastanza allegra. Va bene, dai. Don Giovanni, un momento di autoglorificazione. Sì, Vabbè, no, ce lo può dire, su. È un tombeur de femme. Che succede? È una amara confessione. Io non posso dire a una persona: se mi ascoltavi e ti giravi ti piaceva di più. Io dico, se mi avessi ascoltato e ti fossi girata, avresti gradito in maniera superiore. La non prossima devo volta, all'inizio mi guarda un po' stranita, però si fida. La volta dopo si gira, si volta e le piace di più. Insomma, il congiuntivo è sexy. Il congiuntivo è sexy. No, non è solo che è sexy. Il senso è che col congiuntivo puoi far fare qualunque cosa a chiunque. Va bene. Ecco qua, col suono dell'aspirapolvere vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani alle... No! Stasera passi tu dalla signora a pulire? Sì, perfetto.